Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. Il lavoratore o la lavoratrice che decide di andare in pensione, come può fare per verificare con certezza che la sua situazione previdenziale sia a posto? Il lavoratore o la lavoratrice può richiedere al proprio ente previdenziale l'estratto conto riepilogativo della propria posizione e verificare in questo modo che non ci siano vuoti contributivi o altri problemi. Per quanto riguarda l'INPS in particolare, è possibile chiedere l'estratto direttamente attraverso internet, collegandosi al sito dell'istituto ed entrando nella sezione servizi online per il cittadino.